Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, tutti contro il ministro Grilli. Oggi, nel corso delle audizioni parlamentari sull'effetto della quella che noi chiamiamo manovra correttiva, il ministro e il governo lo vogliono chiamare legge di stabilità, ma cambia poco. Chiamatela anche Maria se volete. Il fatto è che una manovra da 13 miliardi quasi, anzi un pochino più di 13 miliardi, ma il dibattito, che poi non è tanto un dibattito ma è proprio una posizione diversa, è sull'effetto e l'impatto di questa manovra. Il governo, per voce soprattutto del ministro Grilli, continua a dire è una manovra che porterà qualcosa in più di quello che leverà, e quindi una manovra che avrà degli effetti sostanzialmente fiscalmente positivi. In precedenza i giornali, cito anche per onore del vero Il Sole 24 Ore, che in tempi non sospetti la settimana scorsa uscì con un calcolo tra i benefici, ossia meno IRPEF per le prime due aliquote, e invece gli effetti negativi, aumento dell'IVA di un punto e un insieme di detrazioni che vengono ridotte con effetto retroattivo, quindi già dal 2012, il saldo complessivo, non vi faccio tutto il pippotto, era di 2 miliardi e mezzo in più per le casse dello Stato, che a casa mia vuol dire che c'è un aggravio di carico fiscale. Il ministro continua a dire che non è così, che in realtà al netto della Tobin Tax però c'è un vantaggio economico per le famiglie. Oggi, dicevo, un raffica di dichiarazioni contrarie, perché è intervenuto anche il ministro, ma poi nell'ordine il presidente dell'Istat, il presidente della Corte dei Conti, il governatore della Banca d'Italia, tutti a dire no, attenzione, questa manovra aumenterà il carico fiscale, quindi avrà un effetto tra virgolette ulteriormente recessivo. E i partiti, i due principali partiti che sostengono questo governo, e quindi PDL e PD, dichiarazioni oggi anche di Bersani su questo, non fanno mistero ormai da giorni che questa manovra deve essere cambiata. Di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma, mentre per quello che riguarda l'apertura torneremo purtroppo sull'ILVA. Ci sono delle accuse gravissime. Allora, io abbiamo sempre detto attenzione, prima viene la salute e poi il prodotto. La cosa molto grave qui non è, a mio avviso, adesso concentrarsi sulla chiusura, è capire perché in questi anni non è stato fatto niente. E qui bisognerà capire, lo dico con molta trasparenza, le responsabilità dei proprietari della famiglia Riva. Secondo la magistratura sono responsabilità pesantissime, tant'è che sono ancora domiciliari, padre e figlio. Ma oggi c'è un rapporto inquietante, perché dice in sostanza che finché il problema dell'Ilva di Taranto era un problema legato solo alla salute, in nessun governo in questi anni si è mai mosso, è intervenuto. Si è intervenuti per l'Ilva solo ed esclusivamente quando, per via dell'iniziativa della magistratura, si è minacciato il blocco della produzione. Come dire, finché c'era un rischio tumori in aumento, nessuno si muoveva; quando c'è stato un rischio di produzione bloccata, ci si è mossi. Non è una bella lettura, onestamente. Ci occuperemo anche della vicenda fondiera Assai. Ricorderete le nostre, così, non critiche ma osservazioni, rilievi in tempi non sospetti, quando si è saputo che fondiera Assai aveva un buco da 1 miliardo di euro e che praticamente, per non fallire, dicevano tutta, è stata fatta comprare la Unipol scusatemi, oggi la mia voce non è il massimo, ad Unipol per in un'operazione da alcuni anche molto contestata. Ma al di là di questo, oggi per la prima volta nella storia di questo paese viene indagata dalla magistratura un'autorità di vigilanza. Sono di solito in Italia la Banca d'Italia sulle banche, la Consob sulle transazioni azionarie, quindi prettamente sulla borsa anche se non solo, sui mercati finanziari, e l'ISVAP per il mondo delle assicurazioni. Il presidente dell'ISVAP oggi è stato indagato. Perché? Lo cercheremo di capire, perché il magistrato dice se tu avessi, sintetizzo, come autorità di vigilanza messo in atto tutto un insieme di misure prima che fosse troppo tardi, prima che le riserve si rivelassero insufficienti e quant'altro, non ti saresti trovato con un falso in bilancio come quello di cui viene accusata la famiglia Negresti, e con un gruppo in ginocchio. Dico, c'è sempre in questo paese la presunzione di innocenza, e vale anche per il presidente dell'ISVAP. Ricordo solo che insomma, lui si è molto lamentato del fatto che noi toccassimo questo tema, il ruolo dell'ISVAP nei confronti di Fondiere Assai, che avessimo ricordato anche il fatto che il figlio aveva avuto un rapporto con Fondiere Assai. Non c'è niente di male, io dico sempre non c'è nessun reato, ma da questo punto di vista c'è un problema più che altro di eleganza, di opportunità. Se tu sei il figlio del presidente dell'autorità di vigilanza e vai a lavorare per uno dei vigilati tra 2005 e 2006, non è, forse non è il massimo, così come non era il massimo che il figlio dell'allora presidente della Consob, Lamberto Cardia, il figlio Marco Cardia, fosse inquilino di un appartamento nel prestigioso Palazzo dei Parioli, di proprietà della famiglia Ligresti, perché anche la Consob, Fondiere Assai, era un titolo in borsa ed andava vigilata. Tra l'altro palazzo in cui vive tanta gente, Italo Bocchino, Angelino Alfano, Renato Brunetta, Chiara Geronzi, ma il punto è che questi sono o politici o manager o figli di manager, ma non sono coloro che devono vigilare su chi tra l'altro ha la proprietà anche del palazzo in cui abita tuo figlio o lavora, seppur per un anno, tuo figlio. E poi, tanti altri interventi. Fa molta polemica in rete il fatto che Fondiere Assai abbia pagato una buona uscita da 3.600.000 euro all'ex direttore generale Pier Giorgio Peluso, che è figlio del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. Chiaramente lui è stato direttore generale ben prima che la Cancellieri diventasse ministro, e mi sembra che le due cose c'entrino molto molto poco, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo anche qualche notizia sulle regioni e sui costi, sulla ribellione delle province che non vogliono essere accorpate, e anche di borsa. La borsa perde in questo momento l'1,70% a Milano, perde il 2,20% a Parigi, il 2% a Francoforte e l'1,40% a Londra, perde l'1,80% a Wall Street. I titoli oggi più che i bancari, soprattutto Mediaset -4,14%, Salvatore Ferragamo -4%, Finmeccanica -3,60%, Tod's -3,1% come ST Microelectronics, Campari -2,60%, Saipem -2,30%, Banco Popolare -2,20% come Lottomatica, il 2% lo perde Fiat e anche Intesa San Paolo e Mediobanca e Ubibanca. Guadagna pochissimo solo Pirelli +0,20%. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, e poi la pagina di Facebook Focus Economia per i vostri messaggi via rete. Buone notizie arrivano oggi dal petrolio, che procede in calo a 85, anche sotto gli 86 dollari barile, 85,9 dollari. Nella classifica delle borse mondiali, Milano è scesa dal 9° posto, è la classifica della capitalizzazione, nel 2002 al 20° posto quest'anno, anche perché mentre da noi in Europa, devo dire, diminuiva la capitalizzazione di borsa, in altri paesi cresceva, e infatti le prime posizioni sono state guadagnate da Shanghai, Brasile, Bombay, Brasile vuol dire San Paolo chiaramente, e il primo circuito comunque resta il NYSE Euronext, che comprende praticamente la maggior parte delle borse tra Wall Street e le borse europee. Di nuovo tensioni però sullo spread del BTP, e qui veniamo all'Italia, ha sfiorato i 330 punti, in Spagna è tornata la differenza tra quanto costa la Spagna indebitarsi e quanto non costa invece la Germania a 400. Non so cosa interessi, ma alcuni mi chiedono dove ero ieri. Ero a intervistare il ministro Vittorio Grilli e il presidente di Confindustria Squinzi all'Assemblea degli Industriali di Verona, come molti di voi avranno visto, anche perché l'abbiamo anche trasmessa. E devo dire, visto che me lo chiedete, che anche ieri, nel corso di questa intervista pubblica, il ministro Grilli ha negato in maniera categorica che i dati del Sole 24 Ore fossero corretti e che quindi questa manovra avesse un saldo negativo per le famiglie, nel caso specifico, da quello che non risulta, soprattutto per le famiglie con più figli e meno reddito. Nel frattempo, e qui torniamo a Gordon Gekko, gli hedge fund, che non sono cattivi. Poi magari un giorno affronteremo anche questa vicenda di Renzi, degli hedge fund, di David Serra, non mi appassiona moltissimo, trovo che ci sia una grande ipocrisia di fondo, lo dico subito, cioè uno non può essere accusato perché incontra, scusatemi di nuovo, perché incontra esponenti della finanza, anche perché se chi lo accusa, e mi riferisco ai vertici del PD, nel passato frequentava consorte, si occupava di Unipol e di Anton Veneta, aveva dei segretari che al telefono venivano intercettati a dire abbiamo una banca, e il Monte dei Paschi, diciamo, è sempre stato una banca comunque sensibile anche alle esigenze del PD, non mi sembra che la finanza fosse sconosciuta al PD di prima. Ora mettere in croce Renzi perché è venuto a Milano e ha incontrato degli esponenti normalissimi della alcuni sono spesso anche ospiti in questo programma o Salvadanaio, non mi sembra che abbia compiuto questa reato, questa bestemmia. Dopodiché uno può piacere o no David Serra, io personalmente non lo conosco, non ho mai avuto il piacere, e ritengo che avere i fondi alle Cayman non sia bello, le tasse le paga dove può, ma da lì a crocifiggere Renzi, ma dicevamo, gli hedge fund stanno comprando la Grecia. Gli hedge fund sono fondi nati come fondi di protezione, ma comunque altamente speculativi. Da quando è stata completata la ristrutturazione del debito in marzo, che ha trasformato, lo ricorderete, 200 miliardi di euro di obbligazioni greche in 60 miliardi, è partita la corsa di diversi fondi speculativi. Andiamo rapidi, ascoltiamo il cosiddetto invece Mario Monti oggi a proposito dell'idea della cancelliera tedesca Angela Merkel di un super commissario europeo. Ha detto, insomma, mi sembra che stia diventando un'ossessione. Vediamo Monti. Qualche Stato membro da tempo insiste affinché al commissario che si occupa degli affari economici e finanziari vengano conferiti gli stessi poteri che ha il commissario che si occupa della concorrenza. È stata una discussione molto interessante quella, perché non solo si è riusciti a evitare che ci fosse l'ennesima manifestazione ossessiva alla ricerca di un ulteriore meccanismo di enforcement sempre in una direzione, quella della disciplina di bilancio. Noi siamo molto favorevoli a un serio enforcement nella disciplina di bilancio, ma abbiamo già una lunga serie di strumenti che sono il Trattato di Maastricht, il Patto di Stabilità e di Crescita, il Six-Pack, il Fiscal Compact, il Two-Pack che sta per arrivare, e si dà prova di scarsa fiducia nella capacità dell'Europa di applicare le decisioni che ha preso, se ogni volta ci si sente nella necessità di trovare un altro meccanismo per rassicurare la propria opinione pubblica, magari in periodo elettorale. Come anticipato delle dichiarazioni invece del ministro Grilli, che ha detto attenzione, i benefici saranno per il 99% dei contribuenti di questa legge di stabilità, e per quello che riguarda invece anche il vantaggio fiscale dipendenti, le opinioni completamente diverse invece del presidente dell'Istat, della Corte dei Conti e della Banca d'Italia. Di tutto questo parleremo più avanti, e anche delle posizioni politiche. Arriviamo rapidamente alle notizie che riguardano questa crisi, o meglio la crisi che non c'è per gli altri, e anche gli sprechi di denaro pubblico, perché poi vorrei partire con l'Ilva. A chi mi chiede se c'ero anch'io presente alla cena di David Serra, no, guardi, non faccio finanziere, non conto una non conto niente, per cui non m'ha invitato. Ma trovo molto ipocrita tutto questo levarsi di scudi. Uno viene a Milano, tra l'altro non è che abbia incontrato solo l'alta finanza, ammesso che quella fosse l'alta finanza. L'alta finanza ormai non so neanche se stia più a Milano. Comunque il ministro Fornero, diciamolo subito, comunque ognuno la pensi, ieri ce ne siamo occupati, oggi ci sono altre ricerche appunto della CISL. Qui resta sempre il tema tra quello che uno pensa e quello che uno può dire. Sono tante cose che uno può pensare nella vita, ma non necessariamente ha il diritto, o meglio, il diritto ce l'ha perché siamo in democrazia, ma è opportuno dirle. Vale nei rapporti di lavoro, vale se tu ti incontri con tuo capo, con un cliente, non è che gli devi dire per forza hai l'alito che puzza e sei vestito male. Vale anche, a maggior ragione, se sei un ministro del welfare, se c'è una crisi economica che si sta scaricando soprattutto sui giovani, se i tassi di disoccupazione giovanile sono al 25%, se tua figlia non c'entra nulla con te, ma comunque poi viene messa in mezzo perché ha lavorato in un ente, partecipato alla Fondazione San Paolo di Torino di cui tu eri consigliere, comunque lavora all'Università di Torino dove lavori tu e tuo marito che nostro ospite moltissime volte. Insomma, delle volte meglio stare zitti piuttosto che rischiare di essere pesantemente fraintesi. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Cioè, io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno. E lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Diventan tristi se noi piangiamo. Oh, ma cos'è questa crisi? Non faccio altri commenti, tranne uno. La CISL oggi diffonde un dato, un sondaggio tra chi ha meno di 35 anni. Il 71% dichiara che è preferibile fare qualsiasi lavoro, anche non interessante, purché pagato. È un'indagine su 3.600 giovani tra i 18 e i 34 anni. Solo il 20% sostiene che invece è preferibile attendere per trovare un lavoro che rispecchi le proprie aspirazioni. Magari se lo può anche permettere, aggiungo io, no? Dipende da situazione a situazione, che famiglia hai dietro. Però in questo momento, per quanto sia corretto dire che i giovani italiani si sono troppo abituati bene, abbiamo fatto decine di puntate su questo, sui laureati inutili in scienze della comunicazione, su quelli che disdegnano i lavori manuali, abbiamo avuto anche ospiti che raccontavano la impossibilità di trovare qualcuno che venisse a lavorare per loro. Ma non lo può dire un ministro con questa situazione, quando dà l'idea di essere scollegata da quella che è la realtà di centinaia di migliaia di giovani disposti a fare qualunque cosa. Infatti i flussi migratori verso l'estero sono aumentati, e non lo può dire nel momento in cui, diciamo, le riforme che ha fatto non è che proprio la stiano creando questa occupazione. La crisi degli altri. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, un'auto in perfetto ordine a donare nel comune di Vistarino a Pavia è stata una famiglia che invece di venderla ha pensato alle esigenze dei servizi sociali comunali per aiutare le persone in difficoltà che devono utilizzare mezzi pubblici per gli spostamenti. Mancava un'auto, bene, questa famiglia, comune di Vistarino, provincia di Pavia, l'ha data. Come ringraziamento il comune ha deciso che apporrà una targa sulla vettura stessa. Non è l'unico caso di solidarietà avvenuto nel paese. Qualche settimana fa un dipendente comunale ha formalizzato il suo impegno di occuparsi gratuitamente della distribuzione dei pasti nella mensa scolastica gestita dal comune. Noi vorremmo continuare con questo doppio binario, raccontare un'Italia virtuosa, non per mettere una contro l'altra, ma perché c'è anche quella. E poi invece, non so, i presidenti delle province lombarde, ma non sono gli unici, sono tutti in rivolta contro l'accorpamento e sì che nessuno verrà licenziato, eh. A causa dei tagli del riordino delle province è previsto la spending review. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo adesso anche alla puntata EMEA odierna sugli sprechi di risorse pubbliche, poi appunto l'ILVA e la vicenda Fondi Rassai. Vorrei però dare subito l'aggiornamento di borsa: meno 1,80% la chiusura a Milano, meno 2,20% a Parigi, meno 2% a Francoforte, meno 1,44% a Londra. Pirelli è l'unica positiva, chiude con uno 0,60% di rialzo, in pregilo meno 0,13, non si comporta male. Invece meno 4,30% Mediaset, meno 4,20% Ferragamo, meno 3,80% Finmeccanica, meno 3,20% Tods e meno 3,1% ST Microelectronics. Euro a quota 1,29,56, di nuovo scusa per la cattiva qualità della mia voce. La borsa. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Al di là della classifica delle borse che abbiamo già raccontato, oggi sono tornati un po' a salire gli spread, sia italiano che spagnolo, a 330 punti quello italiano, 400 quello spagnolo. La conseguenza sulle banche l'abbiamo vista. Però c'è Mediaset che attende la trimestrale e Ferragamo invece che ha motivi suoi. Di solito il lusso era rimasto abbastanza escluso in questi mesi dalle vendite. Però nelle ultime sedute proprio il lusso, insomma, ha pagato dazio, non solo in Italia, e guardando anche Louis Vuitton in Francia, vediamo come appunto nelle ultime sedute abbia ceduto parecchio terreno. Per quanto riguarda Ferragamo, dal 17 ottobre ha totalizzato una perdita del 10%, pesano i timori su un rallentamento della domanda, soprattutto da parte del sud-est asiatico, che ha sostenuto molto negli ultimi mesi proprio il rally del lusso. Comunque ricordiamo che Ferragamo fu quotato 8 euro, oggi ne vale ancora 15,3, quindi insomma anche chi andasse a vendere oggi non è che potrebbe, diciamo, propriamente piangere. Per quanto riguarda Mediaset invece il tema è sempre lo stesso: il crollo del mercato pubblicitario, le attese per un terzo trimestre che per esempio gli analisti di Mediobanca vedono in rosso per il biscione per 97 milioni e quindi diciamo un titolo che dopo il rally estivo si era immaginato addirittura l'ingresso di un nuovo socio, poi non si è verificato. Certo. Sta tornando sui minimi. E questo per quello che riguarda sia Mediaset che Salvatore Ferragamo. Finmeccanica, meno 3,80%, potrebbe essere, capito, è chiaramente indagato, ma non so se pesi questo sulla attuale Finmeccanica. Oggi ci sono sviluppi anche sull'ex ministro Scajola, indagato nel filone dell'inchiesta della Procura di Napoli sulle forniture Finmeccanica in Brasile. Beh, comunque pesa il fatto che diciamo tutte queste questioni giudiziarie, processuali non tendono a dissolversi e questo potrebbe frenare la procedura di dismissione degli asset del gruppo, per esempio su Ansaldo Energia dopo alcuni giorni costellati di notizie sulle cordate italiane, poi c'è Siemens che si è ritirata dall'asta. Su Ansaldo Energia fondamentalmente mancano novità importanti, questa sarebbe una cessione che potrebbe in parte risanare i conti del gruppo. Ancora sì, quindi anche la vicenda giudiziaria per quello che riguarda Finmeccanica a 3,89 euro, visto che chiedete il titolo. Andiamo avanti con Pirelli, che oggi ha guadagnato in una giornata non facile. Eh sì, più 0,6%, un piccolo, era sulla parità, alla fine è addirittura avanzata di più di mezzo punto percentuale. Ieri aveva chiuso diciamo penalizzata dalle attese per i conti della rivale Michelin, che sono stati diffusi proprio ieri pomeriggio a mercati chiusi, e hanno visto la conferma dei target 2012, anzi vendite nel terzo trimestre cresciute del 5,7%, quindi i timori degli operatori si sono un po' dissolti e sono arrivati gli acquisti sul titolo. Ancora tra i titoli vediamo anche, visto che parliamo di Pirelli, Camfin, perché qui resta aperto lo scontro tra la famiglia Malacalza e Tronchetti Provera, il mercato gode, tra virgolette, più 4,40%. Eh sì, qui Canfin, come noto, è la scatola finanziaria che poi fa capo alla Pirelli. Oggi diciamo è emersa la possibilità che i Malacalza possano fondamentalmente uscire da Canfin ricevendo in cambio azioni Pirelli, che poi sono l'asset industriale principale che sta sotto Canfin, ed è questo il motivo per cui crescono diciamo Pirelli, anche per i motivi che dicevamo prima, sia soprattutto Canfin, insomma, si scommette su una soluzione a breve di quello che è un impasse che dura ormai da diversi mesi. Ancora tra i titoli abbiamo visto oggi tenere Snam Eterna sostanzialmente e Impregilo meno 0,13, Snam meno 0,94, tenere rispetto alla media, e anche Eterna poi è calata più nella parte finale. Ancora tra chi ha perso, dicevamo delle banche, lì si spiega molto con lo spread, Tod's invece meno 3,20%. E anche Tod's sulla scia del lusso. Allora, migliori e peggiori in assoluto, Sintesi più 19,99, Movimax più 15,50, Seat sul risparmio però più 9,90, e di Camfin abbiamo detto Tiscali bene più 3,80%, fronte opposto Nokia Corporation meno 6,40%, SNAI meno 6,34%, Italcementi meno 6,11%. Non è in evidenza oggi Fondiaria SAI come titolo, però lo è molto per quello che è successo, ed è il prossimo tema di questo programma. Non era mai capitato nella storia di questo paese che un'indagine della magistratura mandasse o coinvolgesse in maniera così diretta un'autorità di vigilanza su un mercato. È successo con Fondiaria SAI, e l'autorità di vigilanza si chiama ISVAP. Che cosa è successo? Oggi la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizione a Roma nella sede dell'ISVAP, che è l'Istituto della Vigilanza per le Assicurazioni, e ha notificato un avviso di garanzia al presidente Giancarlo Giannini. Grazie a Ceo Condina, quindi occupiamoci di Fondiaria SAI. La vicenda è nota, tra virgolette, insomma, qui c'è un falso in bilancio di Fondiaria SAI e un gruppo che nell'ultimo anno il titolo ha perso il 66%, ma soprattutto schiacciato da oltre 1 miliardo di perdite nel 2011, con 1 miliardo e 600 milioni di debiti principalmente verso Mediobanca. La famiglia Ligresti esce sostanzialmente per non fallire, vende a Unipol. La faccio un po' breve, non è così, qualcun altro voleva comprarla al posto di Unipol. E a questo punto si fa la fusione. Tra l'altro, la cosa interessante che a noi fece già molto arrabbiare è che, nonostante il gruppo abbia chiuso il 2011 con 1 miliardo di perdite, i membri del consiglio di amministrazione di Fondiaria SAI si sono autodistribuiti 31 milioni di euro di compensi. Nell'ordine, Ionella Ligresti 2 milioni e mezzo, il vicepresidente Paolo Ligresti 2 milioni, l'ex vicepresidente Giulia Ligresti 840 mila euro, e poi soprattutto l'amministratore delegato, che si è dimesso a inizio del 2011, ma che comunque non è che proprio i conti fossero brillanti, Fausto Marchionni, 10 milioni e mezzo di euro di buonuscita. E siccome non c'è solo la casta dei politici, ma esistono anche manager non casta, perché sono tutti contratti regolari, ma forse non legati ai risultati, un bel applauso per il CDA e l'ex ministro delegato di Fondiaria SAI. Per poi aggiungere briciole, 40 milioni di euro di consulenza a Salvatore Ligresti, che era il proprietario, se le faceva le consulenze, no? È interessante questo, 40 milioni di euro di consulenze a chi controlla come primo azionista una società è una specie di sdoppiamento della personalità bipolare. Uno la mattina era una cosa, la sera si confrontava. E poi alla moglie di Paolo Ligresti, Barbara De Marchio, 200.000 euro, i consulenti legali Vittorio e Geronimo La Russa, fratello e figlio di Ignazio La Russa. Tutto, diciamo, tra virgolette regolare. C'era un qualcosa che ci aveva messo ci hanno fatto storcere il naso. Perché il figlio del presidente dell'ISVAP, che deve vigilare anche su Fondera Sai, va a lavorare per una società vigilata tra 2005 e 2006, cioè il figlio di colui il quale oggi ha ricevuto, ma non per questo motivo, ha ricevuto un avviso di garanzia, Giancarlo Giannini, il figlio Andrea era stato a lavorare a Fondiera Sai tra il 2005 e il 2006, così come il figlio dell'ex presidente della Consum, Marco Cardia, Marco Cardia è il figlio, il presidente Lamberto, è inquilino di un appartamento nel prestigioso palazzo ai Parioli di proprietà dei Ligresti. Sono tutte cose legali e coincidenze. È un po' come, diciamo, a tavola uno... può mangiare con il braccio su e il braccio giù, non è un reato, è un problema di opportunità, di eleganza, di savoir-faire, del naso della moglie di Cesare. Riccardo Sabatini, del Sole 24 Ore, buonasera. Salve, buonasera. Allora, io vi svelerò un aneddoto, tanto se no non l'avrebbe mai raccontato. Siccome di questa cosa ci siamo occupati già da un anno, io so per certo che tu sei stato avvicinato dal presidente dell'ISVAP. No, l'ho intervistato. Tu l'hai intervistato più volte, perché ti occupi di assicurazione su 24 ore, che fuori dall'intervista ha detto: ma che cosa vuole Barisoni, Focus Economia, cosa devo fare, continuano a rompermi le palle con sto figlio, così. A me dispiace, noi lo citavamo solo come così scarsa eleganza, non c'è nessun reato. Mi sembra che adesso abbia, lo dico con massimo rispetto, qualcosa di più importante di cui occuparsi, perché è l'ipotesi di reato formulata dal PM torinese Marco Gianoglio è di concorso in falso in bilancio. Una sola precisazione: il figlio di Lamberto Cardia, ex presidente della Consob, Marco, è stato anche consulente, dico sì, bene, per Fondiera Sai. No, perché doveva vigilare anche su Fondiera Sai Cardia, perché è anche quotata in borsa. No, questo lo dico perché non sembri che... No, gli inciuci ci sono solo in politica, nella vita ci sono anche situazioni poco trasparenti nel resto. Allora, è la prima volta che si accusa di falso in bilancio un'autorità di vigilanza, con quali estremi, diciamo? Ma il punto è questo, l'ipotesi è: poiché la società ha dovuto aumentare fortissimamente le sue riserve assicurative, risultate assolutamente inadeguate per oltre 500-600 milioni, allora è chiaro che il bilancio a cui quelle riserve si sarebbero dovute riferire era pertanto poco veritiero dal punto di vista del magistrato che sostiene questa accusa. Ed è per questo che, e poiché l'ISVAP avrebbe dovuto vigilare sulla congruità di quelle riserve, il fatto che non abbia fatto aumentare le riserve quando invece sarebbe dovuto essere, questo, sempre a giudizio del magistrato, almeno a quanto si ipotizza, configura un concorso nel falso in bilancio, perché se quelle riserve fossero state a posto, senz'altro la società non avrebbe esibito i conti che invece ha esibito nel bilancio. Quale bilancio? Nel bilancio del 2010. minuti. Dunque, Riccardo Sabatini, fammi difendere l'ISVAP. Che cosa poteva fare in più? Cioè, il PM, nel momento in cui dice tu, come autorità di vigilanza, sei corresponsabile del falso in bilancio, dice una cosa gravissima. E ripeto, storica, non è mai successo che si dicesse che se c'è un falso in bilancio l'autorità di vigilanza in qualche modo è chiamata in corretta. Prego. Beh, avrebbe potuto mandare ispettori per tempo, avrebbe potuto fare delle ispezioni sul campo, solo che proprio dell'intervista che ci ha rilasciato qualche mese fa, il presidente dell'ISVAP ha detto che loro non sono usi fare ispezioni periodiche, come ad esempio quelle che fa la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ogni 3 anni vigila un istituto di credito. Cioè, manda gli ispettori ogni 3 anni e dice: quindi datemi i libri, vediamo quello tutto, che avete. Gli spuccia, puccia, i tutto. Crediti, le sofferenze, come le calcolate, se dite che questi soldi vi rientreranno oppure no, perché un giochetto classico è dire che tu hai un credito che ti tornerà e magari sai già che non ci torna. Nelle assicurazioni funziona diversamente. Poiché l'assicuratore i soldi li riceve prima di fornire il servizio, cioè di pagare i sinistri. In caso contrario, auguri. Esatto. Allora deve mettere da parte le somme che poi gli serviranno per risarcire un sinistro. Ma se quelle somme non le ha accantonate come doveva, sono quelle che si chiamano le riserve assicurative, a quel punto non sa come pagare i propri assicurati. È questo che rende particolarmente delicato il problema. Mm. Allora, cosa ha detto in quell'occasione il presidente dell'ISVAP? Ha detto: ma noi veramente non facciamo queste indagini, queste ispezioni a tappeto, perché non ne abbiamo neppure le risorse. Quello che facciamo è fare una vigilanza cosiddetta cartolare, cioè sui documenti. Quando da queste carte vediamo delle anomalie, a quel punto sì che interveniamo e mandiamo gli ispettori. È un po' poco. Questo è stato osservato. Poi ci sono naturalmente illazioni, c'è chi specula sulle simpatie politiche di un regolatore e di quelli che gestivano la compagnia, ma diciamo da un punto di vista tecnico la debolezza dell'autority dell'ISVAP nei confronti del mercato assicurativo è stata soprattutto il fatto che non faceva in modo continuativo le ispezioni alle compagnie. Allora, domanda, ok, il presidente dell'ISVAP dice: io non sono uso a fare le ispezioni. È chiaro che la battuta è che ci stai a fare, che puoi mandare solo le lettere e io ti rispondo. Però obiettivamente, secondo te, questo è talmente forte da dire non hai fatto, non, se non l'ha mai fatto con nessuno, non si può dire che c'è stata in qualche modo una preferenza per Fondiare SAI? Oppure tu dici: questo non c'entra, perché tu sei l'autorità di vigilanza e quando c'è qualcosa che non va devi iniziare a muoverti, non puoi aspettare che un gruppo... Io tra l'altro sono rimasto sorpreso che Giannini in questi mesi non abbia detto quasi niente su Fondiare SAI di... come ammissione di colpa, cioè ti crolla un gruppo assicurativo del genere con un miliardo di buco, con una gestione del consiglio di amministrazione fatta in quel modo in cui ognuno si distribuiva i milioni, tu, ma io non sono uso a fare ispezioni, ho capito? Beh, c'erano dei segnali di allarme, tutta l'operazione, quell'operazione Fonsai nasce all'inizio di questo decennio in una situazione di grande debolezza finanziaria, la fusione tra Fondiaria e SAI. Nasce con i soldi sostanzialmente prestati da Mediobanca per far sì che questa operazione si realizzi, e lì c'è stato un grosso problema, perché gli hanno prestato talmente tanti soldi che a questo punto loro stessi erano a rischio se la situazione non si aggiustava. Però resta il fatto che, a fronte di diversi segnali di allarme che erano venuti da giornali, da analisti finanziari, l'ISVAP sostanzialmente ha rinviato le sue ispezioni, l'ha fatta quando effettivamente a quel punto era troppo tardi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni sulla vicenda ISVAP. È vero che poi l'ISVAP è stata accorpata dentro la Banca d'Italia e che a novembre dovrebbe esserci poi il passaggio, però insomma l'accusa di oggi, l'avviso di garanzia per il presidente dell'ISVAP, resta un unicum, una prima volta storica nei confronti di un'autorità di vigilanza. Comunque adesso cambiamo tema, ci occupiamo di un'altra vicenda purtroppo in cui è intervenuta la magistratura, e mi riferisco all'Ilva di Taranto. Personalmente mi ha molto impressionato un passaggio nel rapporto di oggi della Commissione parlamentare sulle ecomafie, presieduta da Gaetano Pecorella, che riguardava proprio la situazione dell'Ilva di Taranto. Il rapporto è stato oggi presentato a Bari. E come sempre quando parliamo di Ilva ci colleghiamo con Taranto, dove c'è per il Sole 24 Ore Domenico Palmiotti. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, il rapporto ecomafia, al di là delle dichiarazioni del ministro Clini che ha detto sull'aumento di malattie e tumori a Taranto, c'è qualche sospetto che possa essere legato anche alla catena alimentare? Io lì non ho capito però se perché la catena alimentare sarebbe inquinata dall'Ilva o perché a Taranto mangino qualcosa di particolare. No, è la diossina si deposita sui terreni, contamina gli allevamenti, contamina i prodotti del mare, e ovviamente la diossina avvelena, diciamo così, l'uomo, non se l'uomo inala, respira la diossina, ma appunto consumando prodotti che sono a sua volta inquinati di diossina. Ecco, ma al di là di questo, dicevo, c'è Domenico, il rapporto della Commissione parlamentare Ecomafie, che è durissimo, ma non solo con l'Ilva, ma forse con l'intera categoria dei soggetti che dovevano intervenire prima, governi del passato inclusi. Sì, certo, ci sono dei passaggi duri, perché la commissione ecomafia ha ascoltato sia il procuratore di Taranto, Sebastio, sia il presidente dell'Ilva Ferrante, è venuto anche a Taranto, ha fatto diverse audizioni. C'è un punto che vorrei sottolineare ed è questo: nella parte dedicata all'Ilva, la commissione scrive fra l'altro: pare incredibile che nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana. Cosa sia stato fatto dagli organi di controllo e dagli enti territoriali nel corso di decenni non è dato sapere. Ecco, mi sembra che è un monito molto forte, molto duro da parte della Commissione. Sì, perché dice i governi si sono risvegliati, hanno avuto un vero e proprio risveglio quando si è creato un problema a livello di produttività e di competitività. Certo, sì, sì. Cioè, come dire, finché non si è toccata la produzione, il fatto che vi fossero dei rischi più volte avanzati, paventati sulla salute, non era degno di arrivare all'attenzione dei governi precedenti. Certo, cioè, questo è emerso anche nel dibattito di oggi a Bari, che ha visto la presenza dei ministri Clini, Balduzzi, del procuratore di Taranto Sebastio, di rappresentanti dell'Ilva. Sì, dice, il problema è stato affrontato quando si è parlato della tenuta dell'impresa e della ripercussione dei posti di lavoro, ma il procuratore Sebastio ha detto il diritto al lavoro è fondamentale, l'ambiente salubre è fondamentale, ma prima di questi viene un altro diritto, ed è il diritto alla vita. Non possono esistere gli altri diritti se non viene assicurato al diritto alla vita una condizione degna, e questa condizione di dignità, secondo la magistratura, è messa gravemente a repentaglio da fumi, veleni e polveri, dall'invasività dell'inquinamento. Il procuratore ha detto poi che la magistratura a Taranto, come altrove, non ha alcun ruolo né voglia di supplenza. Dice: noi interveniamo perché l'azione penale è obbligatoria, noi interveniamo perché dobbiamo applicare il codice, dobbiamo applicare le leggi. Questo fa capire come, aia o non aia, la magistratura comunque andrà avanti nella, come dire, repressione dei reati, anche se il ministro Clini ha auspicato un punto di equilibrio. Ha detto Clini: fermo restando i reati, fermo restando le responsabilità del passato, il Ministero dell'Ambiente, ha affermato il Ministro, si costituirà parte civile, cerchiamo almeno un punto di equilibrio sulle cose da fare, perché approvata l'AIA, l'altro tema importante che va affrontato subito, ha detto il Ministro dell'Ambiente, è quello della bonifica, perché se il sito di Taranto rimane così come è oggi, continuerà a generare inquinamento, continuerà a generare malattie. E ha detto infatti Clini, dopo l'AIA, l'autorizzazione di impatto ambientale, ci sarà la bonifica. Attenzione, perché comunque abbiamo sempre ritenuto un errore, o meglio, che si dovesse cercare di fare il possibile per non bloccare gli impianti. La siderurgia ha questa caratteristica per cui ci vogliono mesi per bloccare gli altiforni e poi mesi per farli ripartire, vuol dire uscire dalle commesse internazionali, uscire dal mercato e creare disoccupazione. Però è anche vero che le responsabilità vanno date e scaricate non sui lavoratori, ma anche su chi non ha fatto quanto avrebbe dovuto negli anni passati. C'è un'inchiesta della magistratura in corso, gli arresti domiciliari per Riva padre e Riva figlio, e però è anche vero che bisogna notare che di questa vicenda, ha ragione a mio avviso la commissione parlamentare, ci si è occupati solo quando si è minacciato il blocco della produzione dell'Ilva, perché prima tanti soggetti, tutti un po' morbidi, tranquilli, nessuno così preoccupato. Grazie a Domenico Palmiotti. Adesso inizia una pagina relativa alla politica, o meglio ai costi della politica, da un lato, e alla manovra finanziaria correttiva, come la chiamo io, o come la chiama il governo, il documento di stabilità economico-finanziaria. Innanzitutto, in un orario che non è il suo, però insomma, i soldi pubblici utilizzati dalle nostre amministrazioni regionali e locali. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, iniziamo questa volta da un sindaco, il sindaco di Fornovo San Giovanni, 3.000 abitanti nella bassa bergamasca, va in giro con la sua Jaguar e non c'è niente di male. La cosa che secondo me è un po' più così strana è che chiede il rimborso per la benzina dalla casa al municipio, però insomma, la cosa strana è che lui si è fatto rimborsare 83 viaggi tra Fornovo e Caravaggio, anche se lui dice di andarci almeno 3-4 volte al giorno. E in questo modo, dice, faccio risparmiare 20.000 euro l'anno. Non capisco poi perché, dice il sindaco, che si chiama Pierluigi De Vita, perché queste insinuazioni siano uscite solo ora. Il rimborso lo prendo da 10 anni. Allora, capito? Non è che se 10 anni che fai una cosa stiamo tutti zitti. E l'opposizione dice, attenzione, potrebbe invece che venire 4 volte su e giù, potrebbe venire una volta sola e fermarsi qualche ora in più. Io dico che in generale un sindaco, insomma, se è per andare in comune, perché deve avere un rimborso? Altra cosa per le trasferte. Ma torniamo anche alla Sicilia. Addirittura il Wall Street Journal si occupa oggi con un articolo, i guai di una città, è riferito a Sciacca, provincia di Agrigento. I guai di una città siciliana mostrano gli sprechi europei. Per fortuna, aggiungo io, non tutte le città europee sprecano come alcune città siciliane o di altre parti della penisola. Negli anni Ottanta, ricorda il giornale, sono state comprate 2 orche assassine per rilanciare l'industria turistica a Sciacca, ma è stato un flop. Il parco acquatico che le avrebbe dovuto ospitare non è mai stato costruito e chissà dove sono finite le 2 orche assassine. E tantissimo danno pubblico è stato buttato per mantenere questi animali in uno zoo islandese, perché alla fine le hanno dovute portare in uno zoo islandese. Ecco la fine che hanno fatto le orche assassine. E la città sta lottando per attirare turisti anche con un grandioso teatro in costruzione da circa 40 anni, così grande da competere con i teatri dell'Opera di Roma o di Parigi. Sciacca dichiara guerra all'Olimpia e va bene ancora un mausoleo di lavori pubblici mai completati. E poi continua il vostro giorno, decenni di sprechi in tutte le regioni italiane. Pensate che invece oggi l'ufficio studi della Confartigianato fa sapere che ci sono 24.396 persone in più nelle nostre regioni, e il rapporto fra dipendenti inutili e utili: su 3 persone impiegate nelle amministrazioni regionali ce n'è una di troppo. Sono in questo momento 78.679 le persone che lavorano nelle regioni, 78.679. Ne sarebbero sufficienti 54.000. Pensate che se tutte le regioni avessero i dipendenti standard nel rapporto dipendente-abitante, risparmieremmo 2 miliardi e mezzo l'anno. Se sommiamo anche i costi di gestione, il calcolo aveva già fatto solo 24 ore, arriviamo a 4 miliardi di euro di risparmi. Magari si possono utilizzare per abbassare significativamente l'IRPEF o non aumentare l'IVA. E di questo parliamo dopo il traffico, perché oggi il ministro Grilli si è trovato completamente da solo in audizione parlamentare, perché gli hanno dato, tra virgolette, torto sia il presidente dell'Istat che quello della Corte dei Conti che la Banca d'Italia. Questa, per la prima volta in diversi anni, è una legge di stabilità praticamente a saldo zero. Non chiediamo al Paese ulteriori sacrifici nel suo complesso. Quello che questa piccola manovra rispetto alle precedenti di circa 10 miliardi fa e cercare di cambiare la composizione attraverso cui quei saldi inviolabili vengono raggiunti. Dei 40 milioni di contribuenti, 30 hanno sicuramente un effetto positivo, e chi non ha un effetto positivo potenzialmente negativo sono circa 490.000 dei 40 milioni. Quindi parliamo che in questo caso il 99% dei nostri contribuenti ha un effetto positivo, il 99% dei contribuenti, circa il 99% dei contribuenti. È anche interessante vedere come vengono la composizione di come vengono distribuiti sui tipi di recipienti di reddito questo tipo di vantaggio. Il vantaggio complessivo è il 54% a favore di contribuenti con reddito da lavoro dipendente prevalente, il 34% a favore dei pensionati, il 10% a favore di soggetti con redditi da lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione prevalenti, il restante 2% è a favore di titolari di altri redditi. E tira dritto il ministro Grilli, l'avete appena sentito, il 99% dei contribuenti beneficeranno di questa piccola manovra, a noi non sembra così piccola, comunque. Manovra finanziaria, e soprattutto saranno quelli che hanno un reddito prevalente da lavoro dipendente. Ora uno dice va bene, fin qua tutto bene, mica tanto, perché poi in commissione parlamentare sono arrivati, e li ascoltiamo in quest'ordine, gli interventi del presidente dell'Istat Giovannini, del presidente della Corte dei Conti Giampaolino e del vice direttore di Banca Italia Salvatore Rossi, e la pensano in maniera diametralmente opposta. Sentiamo appunto nell'ordine Giovannini, Giampaolino e Rossi. Meno di un mese fa, in occasione dell'audizione presso queste commissioni riunite, avevamo documentato come l'economia italiana stia attraversando una delle fasi recessive più lunghe della sua storia e come, in conseguenza di un quinquennio di forte difficoltà, il reddito disponibile delle famiglie a prezzi costanti si collochi sui livelli del 2001 in termini assoluti e su quelli della prima metà degli anni 90 in termini pro capite. Inoltre si segnalava come l'analisi della congiuntura rivelasse alcuni primi, seppur timidi, segnali positivi. Ulteriori segnali incoraggianti, ancorché non univoci, sono emersi anche dalle ultime settimane. Peraltro la cautela nell'interpretazione di questi dati è d'obbligo. In particolare, al rischio dell'emersione di ulteriori aumenti impositivi generati dallo stesso disegno di legge di stabilità. È il caso in particolare di inasprimenti IMU tariffe che le amministrazioni locali potrebbero delineare per compensare gli ulteriori tagli di spesa o i nuovi aggravi derivanti dal disegno di legge. In generale, un regime fiscale con aliquote più basse e un sistema di detrazioni e di deduzioni più semplice riduce le distorsioni, accresce la trasparenza, stimola lo sviluppo economico. Gli interventi delineati si muovono in questa logica, occorre proseguire lungo questa strada, riconsiderando una per una tutte le agevolazioni fiscali, detrazioni, deduzioni e domandandosi se siano ancora utili, un metodo non dissimile da quello della spending review dal lato della spesa. E poi il presidente dell'Istat ha continuato: attenzione, questa manovra darà meno benefici alle famiglie con i figli, l'aumento dell'IVA interesserà l'80% della spesa, la Corte dei Conti ha detto ci saranno più tasse per i redditi molto bassi, e la Banca d'Italia ha continuato: c'è un rischio di un aumento delle tasse locali. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. A te il commento conclusivo. Insomma, Grilli isolato dagli altri soggetti, isolato anche dal partito. Oggi Bersani è tornato a dire che insomma che Grilli ha torto. Sì. Che succede al ministro dell'economia? Beh, il profilo della giornata è chiara, come avete dimostrato voi con il vostro servizio. Probabilmente c'è un errore di fondo, perché Grilli in un primo momento aveva detto che non c'era nessuna manovra e questa era solo la legge della di stabilità. In realtà la manovra si è capito subito che invece c'era ed era anche pesante, e presentarla, diciamo, nel momento in cui il Partito Democratico è impegnato nelle elezioni primarie e comunque in generale siamo già in clima elettorale, forse è stato un errore presentare una manovra di queste proporzioni. Quindi questo secondo me c'è un errore di metodo a monte. Nello specifico le valutazioni, come abbiamo sentito, sono completamente diverse. Oggi il ministro Grilli da questo punto di vista è isolato e lo stesso governo, diciamo, è accerchiato da un lato con, grazie alle valutazioni di altri tecnici, perché qui parliamo della Corte dei Conti, della Banca d'Italia e dell'Istat, e dall'altro lato dal sistema dei partiti che è già in campagna elettorale e quindi coglie l'occasione, diciamo, per un distinguo, ciascuno, diciamo, guardando al proprio orticello elettorale, per un distinguo sulle politiche economiche del governo. Questa mi sembra la situazione. Ecco, però Guido, per concludere, ieri in quell'intervista che ricordavo, il ministro Grilli mi ha detto: ma non ci sono margini per cambiare il perimetro, il saldo complessivo deve essere invariato. Allora ti chiedo, quali sono i rischi che questa manovra non passi in Parlamento, perché questa è una proposta del governo, non è un decreto legge? È ovvio, è un disegno di legge e quindi è assolutamente modificabile. Credo che sui saldi il governo potrà tenere duro, perché effettivamente questo sarebbe un problema se si modificassero i saldi. Però detto questo, è molto probabile che la manovra cambi nettamente, diciamo, in tutti i suoi aspetti, e quindi potremo vedere magari maggiori tagli di spesa e meno tasse. Oddio, detta così, beh, maggiori tagli di spesa e meno tasse la firmo subito, visto quello che raccontiamo ogni giorno, Guido. Sarebbe anche uno scatto così d'orgoglio, forse elettorale, dei partiti. Staremo a vedere. Grazie a Guido Gentili, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.